figlia, siam rei. Io di schernito sdegno, tu d'amore sprezzato. Vorrei il nostro nemico vendicarsi dell'uno e placar l'altro. Tutta la colpa mia è una vendetta che ha fallito il segno. Odi dunque, ma tutto ad incontrarlo ci vuol la tua virtù. Vedi, questo è veleno, te miei vasti tesori unico avanzo. Te ne fo parte, e perché l'usi ardita, il mio intrepido cor te condivido. Tu, figlia, al primo insulto che tenta il Tamerlan, lo bevi e mori. E me vedrai al primo infausto avviso preceder o seguir il tuo destino. Padre, al tuo gran voler la fronte inchina.